sono Margherita Pepe e sto ascoltando Coxo Spaziale. Coxo Spaziale. Ha inaugurato ieri a Palazzo Belloni, in via Barberia 19, Francis Bacon Mutazioni. Ufficialmente apre oggi, il 1 giugno, e dura fino al 16 settembre. 70 opere fra disegni, pastelli e collage realizzati da Bacon tra il 77 e il 92, dice il comunicato stampa, svelano al pubblico la dimensione intima del suo lavoro nel tentativo di scoprire e dare forma alla condizione psicologica interiore dell'uomo contemporaneo. Coxo Spaziale è stato alla conferenza stampa, abbastanza originale devo dire questa conferenza stampa, con la presenza di un avvocato oltre al co-curatore della mostra, se non sbaglio, ovvero l'amico di Bacon che detiene la maggior parte di queste opere. E dicevo, è stata abbastanza curiosa la conferenza stampa perché si è passato molto tempo a giustificare l'autorevolezza di queste opere, senza che nessuno appunto gli implicasse che queste opere non fossero autentiche. Devo dire che la mostra è bella, i disegni sono interessanti, obiettivamente io sospendo il giudizio rispetto all'autenticità delle opere e vi lascio a voi la possibilità di decidere se le opere siano autentiche o meno. Ufficialmente lo sono, sembra che ci sia stata una causa negli anni 2000 e che poi appunto sia stato la Bacon, come si chiama, la Bacon Estate abbia ritrattato tutto, per cui credo che non si sia arrivato a giudizio. Adesso non ho indagato più di tanto, ma ascoltiamo un po' delle parole di Cristiano Lovatelli Ravarino, appunto il detentore della maggior parte di questi disegni, che ci racconta qualche aneddoto su Francis Bacon. Quando gli chiedevano: ma se non avesse fatto il pittore, cosa avrebbe fatto? E lui diceva: rispondo come rispondeva Goethe, se non avessi fatto lo scrittore sicuramente avrei fatto il criminale. Però dicevo: purtroppo non sono così bravo, non sono proprio timido di fare il criminale. Però a proposito di serial killer, e lui è stato, scriveva delle lettere in corrispondenza, credo 15 anni, con il più grande, anche queste storie sono cose descritte, documentate, col più grande serial killer della storia inglese, che era un nome banale, non sono sicuro che Paul Jones, un nome banalissimo veramente, che ha ucciso 76 donne. Il quale si informò e fece arrivare alla segreteria una lettera a Bacon dicendo: vede, cioè, se lei mi avesse, io vorrei fare la pittura, se lei mi avesse insegnato, io non avrei ucciso 75 donne, quindi in qualche maniera è colpa sua. E Bacon disse: solo ti chiedo scusa, io veramente non. Quello che posso fare è se ti posso dare qualche suggerimento. E gli ha insegnato tramite lettere a questo serial killer, che alla fine faceva dei grandi studi su Van Gogh, Pissarro, impressionisti, quadri che proprio casualmente, non casualmente, insomma, sono stati dal pittore De Carati, che forse non ci dovremmo fare una parte, sono una quadratina, anche abbastanza interessante. E quindi, come dire, certamente una persona dalle capacità contraddittorie infinite, però una parte di questa persona era immensamente diversa da quello che la leggenda, oppuratamente gestita dal marmo, che censurava tutte le foto dove lui poteva sembrare contento, tranne quelle in cui era accanto a Miro, a Giacometti, allora tra geni si può essere anche allegri. Lei ha censurato tutte le foto, per cui abbiamo la prova documentale. L'artista maledetto sul mercato funziona di più. Sì, penso, certamente potrebbe essere terribile, certo. Concludo con una battuta una volta al Cold Room, che era questo raffinatissimo, selezionatissimo club d'arte inglese, dove si diceva: o sei una testa reale, o sei un genio, o sei un milionario, se no non entri. E vabbè, in questo Cold Room, dove lui passava, lavorava la mattina prestissimo, poi il tardo pomeriggio andava lì fino a tarda sera, arrivò un bellissimo, insomma, aspirante pittore, e diceva: sono così bello. Dice: caro Francis, dice, guarda, ti adoro, sei un grande genio, posso avere l'onore di invitarti nello studio? E il pittore rispose: nel tuo studio non verrò mai, Questo dice, ma cosa ho fatto? Non hai ancora visto le mie opere? Sì, dice, ho già visto la tua cravatta. Quindi, da questo è bella. Coxo spaziale! La di da di da, devo dire che io non sono mai stato un grandissimo amante di Francis Bacon, anche se capisco benissimo l'influenza che ha avuto la sua pittura nella non solo nell'arte, nella body art e nell'arte pittorica, gestuale, eccetera, ma anche anche nell'arte concettuale, soprattutto nell'arte concettuale inglese. Francis Bacon aveva questo atteggiamento un po' canzonatorio, abbastanza arrogante, diciamo, e anche molto esistenziale, cioè nell'accettazione della condizione dell'uomo, no? Lui sicuramente era arrivato a toccare il fondo e sicuramente ha reagito pittoricamente proprio nell'esplorazione intima di quanto l'uomo possa cadere in basso. Ed effettivamente questo secondo me ha influenzato molto anche nell'atteggiamento, non solo nelle opere d'arte, artisti come Damien Hirst, come Sarah Lucas, come Tracy Emin, eccetera, appunto gli YBA. Comunque la mostra sta su fino a settembre. Adesso non trovo più il dove ho appoggiato il mio pacchetto stampa. Ah, eccolo qua. Sì, la mostra sta su fino al 16 settembre ed è a Palazzo Belloni, in via Barberia 19, www.palazzobelloni.com. E così, e adesso ascoltiamoci un po' di musichina. I don't mind if you take back your dog again from now. È dunque l'anno del cane per l'oroscopo cinese. Dice le caratteristiche principali delle persone del segno del cane, quelli nati nel 2006, 94, 82, 70, eccetera, sono la lealtà, l'onestà e l'intelligenza. La tradizione vuole che il cane sia un partner solido, sincero e affidabile. Tra le sue caratteristiche negative, invece, troviamo l'eccentricità e talvolta l'egoismo. Siete dei cani egoisti. The floor. Oh, hey, oh, hey, oh. Menzione. Ed eccoci arrivati all'angolo della menzione. Questa settimana ne abbiamo una sola ed è alla Galleria De Foscherari, dove inaugura giovedì 7 giugno alle ore 18 Mario Ceroli, La Grande Occasione. La Grande Occasione è il titolo suggerito dall'artista stesso della personale che Mario Ceroli inaugura alla De Foscherari. Una grande occasione per l'autore che rilegge, sono parole sue, i suoi 80 anni da poco compiuti, rallegrati dalla straordinaria attività realizzata finora. Una grande occasione per la galleria che esibisce a 50 anni dalla prima personale dell'artista la famosissima Aria di Daria. Alcune delle sue opere più recenti e significative, una grande occasione per il pubblico e per la critica che possono assistere in anteprima alla conclusione, per fortuna ancora provvisoria, dell'attività di uno dei maggiori artisti italiani viventi. Adesso Ceroli, uno dei maggiori artisti italiani viventi, sicuramente uno dei più famosi artisti italiani viventi che abbiamo avuto. Io devo dire che non ho mai amato particolarmente il lavoro di Ceroli, anche se mi ricordo con un po' di nostalgia la casina del Nettuno, non so se ve la ricordate, c'è stato a un certo punto il Nettuno doveva essere restaurato ed è stato chiesto a Mario Ceroli di costruire questa casa che poi a quanto pare doveva essere riutilizzata tutte le volte che il Nettuno veniva restaurato, cosa che poi naturalmente è successa e naturalmente la casetta non è stata riutilizzata. Per cui io mi chiedo, quelle tonnellate di legno scolpito fra l'altro da questo scultore che non so se lo conoscete, anzi sicuramente ne avrete viste delle opere, ha questa tendenza di utilizzare delle lastre di legno piatto e delle sagome, delle silhouette di persone. E appunto la casa del Nettuno era fatta in questo modo, ma io mi chiedo appunto dove sarà finito tutto quel legno. L'hanno buttato al macero, era un'opera di Mario Ceroli che magari fra 100 anni poteva anche avere un suo perché, ce l'avete ancora nei sotterranei del Mambo, chi lo sa, anzi forse magari il Mambo addirittura non c'entra niente con tutta questa faccenda, ma credo di sì. Detto questo, appunto, giovedì della settimana prossima andiamolo a trovare, anche perché io dal vivo non l'ho mai visto e sono anche curioso di vedere una mostra alla De Foscherari, perché devo dire che c'era un altro artista che non amavo particolarmente, che è Gilberto Zorio, conoscendolo appunto relativamente, mentre invece devo dire che la personale che lui aveva fatto alla De Foscherari era veramente fantastica, veramente una delle mostre più belle che ho visto negli ultimi anni, in assoluto. E per cui andiamo a farci stupire anche da Mario Ceroli giovedì 7 ottobre dalle ore 18, e questo è alla Galleria De Foscherari in via Castiglione 2B a Bologna. Le menzioni sono finite, andate in pace. For tomorrow, and then running out of sight, further away from the light. Streets were dark and narrow. I was going out my mind, and the trail I left behind made me weak and shallow. Cox spaziale. Intanto stavo guardando che cos'era successo in questa settimana di arte, e stavo sfogliando Art News, un sito che appunto naturalmente parla di arte internazionale, e artnews.com. E mi dice che ha aperto un nuovo outpost, come si dice outpost in italiano, non mi viene in mente, una sorta di filiale forse del Pompidou, del Centre Pompidou di Parigi, che è aperto nel centro di Bruxelles. Interessante, no? Che un museo parigino apra una filiale a Bruxelles, in Belgio. Stavo leggendo che cosa implicava questa cosa. Si parte con una scultura di Tinguely. Stavo guardando di che cosa si tratta. Hanno già preparato 12 mostre che prenderanno piede nei prossimi 13 mesi. White wooden stage laden with 30 models. Ok, no, sì, in realtà si chiama Canal con la K, Centre Pompidou, ha inaugurato il 5 maggio, per cui non da tantissimo, neanche un mese, ed è partito tutto con questo assemblaggio di 30 motori, cioè praticamente una sorta di scultura movibile di Jean Tinguely con gomme, cinture di motori, un cimbalo che si spacca, lampadine, roba del genere. This vision of pandemonium, it turns out, is 1984 Jean Tinguely's kinetoscope L'Enfer, un petit début. Hell, a small beginning, ovvero l'inferno, un piccolo debutto si chiama, ed è una scultura di Jean Tinguely del 1984, probabilmente molto grande, per cui poco vista. Questo mi devo dire che mi incuriosisce abbastanza. Molto bene, andiamo a vedere che qualche altro sito interessante che cosa ci racconta di questa settimana nell'arte contemporanea. Guardiamo Freeze, Art Performance Lost, As Performance Art Lost the Teeth to Offend. C'è un articolo di opinione su Freeze, appunto, freeze.com, che è una rivista inglese che ha anche un sito interessante con un sacco di articoli, che parte appunto chiedendosi se la performance art non ha

Impiegato quarantenne cerca donna anche sessantenne, anche vedova, anche sposata, anche uomo, per condividere una vita vuota e monotona. Scambio 177 punti COP con finestrino Prince. Scambio confezione Pongo come nuova con una scatola di tonno star all'erba cipollina. Scambio intera discografia di Mietta con numeri civici in metallo, eccetto il 3 ed il 7, di qualsiasi misura. Già finito? Io sono Danilo De Summa e... Sto ascoltando? Coxo Spaziale. When I think of you, Baton Rouge, I think of a mariachi band. I think of 16 and a crisp green football field. I think of the girl I never had. When I think of you, Baton Rouge, I think of a backseat in a car. The windows are foggy and so are we, as the police ask for our ID. So helpless, so helpless, ooh. So helpless, ooh, so helpless, ooh, so helpless, so helpless. Well, I once had a car, lost it in a divorce. The judge was a woman, of course. She said, give her the car and the house and your taste, or else. I set the trial date. So now when I think of you, Baton Rouge, and the deep southern bells are with their touch, I wonder where love ends and hate starts to blush. In the fields, in the swamps, in the rush, in the terracotta cobwebs of your mind. When did you start seeing me as a spider spinning web of malicious intent? And you as poor, poor me, at the fire, at the joint, this dislocated broken mount, in the bedroom, in the house where we were unmarried. So helpless, so helpless, so helpless, so helpless, so helpless. Helpless. When was I the villain in your heart, putting the brake on your start? You slapped my face and cried and screamed, that's what marriage came to mean, the bitterest ending of a dream. You wanted children and I did not. Was that what it was all about? You might get a laugh when you hear me shout. You might get a laugh when you hear me shout. I wish I had. So helpless, so helpless, so helpless, so helpless, so helpless, so helpless. Sometimes when I think of Baton Rouge, I see us with 2.5 strapping sons, 1.5 flush daughters preparing to marry, and 2 fat grandsons I can barely carry. Daddy, uncle, family gathered there for grace. A dog in a barbecue pit goes up in space. The dream recedes in the morning with a bad aftertaste. And I'm back in the big city, worn from the race of the chase. What a waste. So thanks for the card, the announcement of child. And I must say, you and Sam look great. Your daughter's gleaming in that white wedding dress with pride. Sad to say, I can never bring that to you, that wide smile. So I try not to think of Baton Rouge, or of a mariachi band, or of 16 and a crisp green football field, and the girl I never had. So helpless, so helpless, so helpless. So helpless, so helpless, so helpless. E ahimè, anche quest'oggi Coxo Spaziale è terminato e vi salutiamo. E vi saluto anche Fedra, che prima o poi ci raggiungerà di nuovo in questi studi, anzi spero molto presto, grazie anche alle ferie di alla fine dell'anno scolastico riusciremo a rincontrarci dentro agli studi di Radio Città Fujiko insieme e magari fare qualche trasmissione con un po' di ritmo in più e soprattutto dal vivo e magari anche con qualche live che mi piacciono tanto fare i live dentro la Radio Città Fujiko, anche grazie a questo fantastico microfono che abbiamo ambientale che ci permette di sentire tutto molto bene. E questo è quanto, ci vediamo, ci riascoltiamo venerdì, come sapete Coxo Spaziale tutti i venerdì dalle 20 alle 21, il nostro appuntamento con voi è per l'8 giugno, sempre dalle 20 alle 21, sempre su Radio Città Fujiko, sempre con me Stefano W. Pasquini e possibilmente anche con Fedra Boscaro. Vi lascio con una canzone di Leone Monteduro, l'album si chiama Cuor di Leone e la canzone invece è Immensa, infatti si chiama Immenso, ma prima di lui naturalmente le parole del nostro magnifico direttore. Ciao. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Eravamo noi come spugne di mare, immerse fino in fondo in acque limpide e chiare. Quando un giorno poi, senza neanche parlare, mi hai regalato un sogno, che sogno poi però non è. Eravamo lì, eravamo appesi al mondo, sembrava che eravamo immersi nel fondo di un oceano che ora ci regala un sogno immenso che dà il senso ora a noi due. Lascia che mani afferrino quello che questo mondo ha tolto a me, a te, poi perché le mie dita si immergono dentro noi come fosse ricostruire di più di me di te, poi perché se questo sogno infine poi non c'è. Di più di me di te, poi perché se questo sogno infine poi non c'è, lascia che le mie mani afferrino quello che questo mondo ha tolto a me, a te, poi perché queste dita si immergono dentro noi come fosse ricostruire di più di me di te. E poi perché, se questo sogno infine poi non c'è,